quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi vida così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su. Sido solo qua, sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora. Mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su.